burst out of the blocks. Tommy Smith running pretty well so far. And in lane two, Bombuk is strong on the outside. It's Edwin Roberts. It's John Carlos right now. It's Carlos and Smith. And here comes Tommy Smith! 1968, 1 ottobre, caldo Centro America, Messico. Una fiamma vecchia secoli brilla da qui sullo sguardo dei popoli. Anni dove per un'altra fiamma calda di speranza molti parlano, cantano. C'è chi ha scelto di combattere, di resistere. C'è chi ha scelto di correre. Tommy è americano, grazie dice per la farsa, ma siamo uomini e non cani da corsa. Sale sopra il podio, porta la medaglia al collo e mentre parte l'inno alza un guanto nero come pelle, nero come rabbia, nero come nero questo silenzio. Perché tutte le parole dentro un pugno verso le stelle. Meno di 20 secondi, non ha nessuno davanti.